Questo è lo spazio dedicato al teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 14 con interviste su spettacoli, festival e rassegne in corso. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Mediterranea, la via di terra a Roma. Con la presentazione della scrittrice Michela Murgia e Alessandro Metz, armatore della nave Mare Ionio, le letture di Valeria Golino, Francesco Trento, Francesco Pacifico, Teresa Ciabatti, Alfonso di Lercio.it, Rossella Milone, Tommaso Pincio, Sandro Veronesi, Veronica Cruciani. Non essendo uno spettacolo nel senso normale con cui si chiamano gli spettacoli, le cose che avvengono a teatro, ha più il senso di una donata civica. Quindi suppongo, credo fondatamente, che chi si trova qui lo faccia perché ha una motivazione che coincide, si avvicina alla stessa che ha portato noi a essere qui stasera qui. Io devo fare solo dei ringraziamenti. Perché questa via di terra sono 9 date che hanno cominciato a Cagliari qualche giorno fa, hanno proseguito poi per Bologna, per Torino, per Venezia, per Palermo e proseguiranno domani a Napoli e a Milano. Ha potuto realizzarsi grazie al concorso di molta generosità, di un'economia di relazione che ha messo insieme molti saperi, molte competenze, molte silenziose, non le vedrete, non tutte sono su questo palco, ma io le voglio ringraziare. Prima di tutto il teatro che ci ospita, il Teatro Biblioteca Quarticciolo, che ha messo generosamente a disposizione gli spazi con una rapidità che di solito, insomma, le programmazioni non consentono. Quindi il primo grazie va a loro. Un grazie va anche a Domenico Procacci e a Fandango che ci ha fornito la troupe che ha fatto le interviste prima, interviste molto semplici in cui alle persone che saliranno su questo palco è stato chiesto semplicemente perché lo stanno facendo, perché è importante in questo momento dire qual è il senso di un gesto come questo, che non è solo pratico ma è anche simbolico. Ci sta fotografando Chiara Pasqualini, questo è un privilegio davvero di pochi, quindi tutte le vostre facce potrebbero uscire da qualche parte in pubblico. Se non volete, ditelo subito, perché lei vi punterà addosso l'obiettivo quando meno ve l'aspettate. Il ringraziamento va anche a Left Loft, che ha fatto le grafiche che vedrete durante le letture, e in ultimo a Maddalena Gazzaniga, che si è prestata a fare l'ufficio stampa gratuitamente per tutte le organizzazioni delle città che ne avevano bisogno e non erano in grado di fare da sole. Quindi oltre questo non andrei e lascio invece lo spazio alle parole e ai corpi delle persone che saliranno sul palcoscenico questa sera. Grazie. Sale sul palco per primo l'armatore della nave Mare Ionio, Alessandro Metz. Io ti ringrazio. Ti ringrazio perché è tutto eccezionale. È eccezionale che io faccia l'armatore, è eccezionale che più di 100 artisti, scrittori, scrittrici, attrici, attori, registi si mettano assieme per una via di terra a sostegno di un progetto come Mediterranea. Che è un progetto che, visto il momento politico, a queste persone non è detto e scontato che porti consenso. È eccezionale che in qualunque iniziativa che stiamo facendo in giro per l'Italia viene fatta, le sale sono piene, le persone arrivano, eventi vengono ogni giorno promossi nelle parrocchie, negli spazi sociali, nei circoli associativi o nelle sedi di partito o sindacale, nelle librerie. C'è un'eccezionalità incredibile che dimostra quanto bisogno c'era di Mediterranea. Mediterranea è una rete di persone, soggetti politici, imprese sociali, privati cittadini, pubblici o meno, che hanno deciso di essere laddove maggiormente la contraddizione oggi si esprime. Il Mar Mediterraneo è la frontiera più pericolosa al mondo, per il numero di morti che ogni giorno avvengono. In media, 8 persone muoiono nel Mar Mediterraneo, uomini, donne e bambini. La retorica che ci governa alcuni mesi fa festeggiava il fatto di essere riuscita nella desertificazione del Bar Mediterraneo. Non c'erano più navi delle ONG, non c'erano più solidali presenti nel Mar Mediterraneo e questo veniva festeggiato. Significava non avere più nessuno che potesse vedere, monitorare, raccontare quello che succede e laddove ce ne fosse bisogno e necessità, corrispondere a quelle che sono le normative internazionali, le leggi del mare e quindi salvare chi sta naufragando. Sì, perché il paradosso è proprio questo. Noi stiamo agendo all'interno delle leggi del mare, delle normative internazionali, mentre la politica che oggi si esprime attraverso i governi di questo paese, ma anche di molti paesi europei, sembra che l'atto umanitario oggi sia illegale. La criminalizzazione dell'atto umanitario. Quindi non potevamo che fare questo, non potevamo che comprare una nave. Era necessario, è stato necessario e ci siamo riusciti. Questo è eccezionale. Ci siamo riusciti di un'impresa che sembrava impossibile. Eppure la prima nave battente bandiera italiana è presente nel Mar Mediterraneo, ha svolto la prima missione, attualmente è in scalo tecnico nel porto di Palermo e nei prossimi giorni ripartirà. Tutto questo è frutto di una idea, una necessità, un bisogno molto forte, che è quello di salvarci. Noi l'abbiamo detto da subito, non andiamo a salvare, andiamo a salvarci, andiamo a salvare quella parte di umanità, di civiltà, di dignità che ancora ci rimane. E quindi là dobbiamo essere, là dove non ci vogliono e là dove non vorremmo nemmeno noi esserci. Eppure questo sta succedendo e può continuare, può avere una continuità nel momento in cui molti, tanti sentono propria questa missione, sentono propria questa progettualità e quindi fanno propria Mediterranea. Per questo gli artisti che anche questa sera si saranno presenti su questo palco sono fondamentali. Sono delle voci che riescono a parlare a molti. Noi dobbiamo riuscire a parlare a molti, a tanti di più di quanti normalmente saremmo riusciti da soli, ognuno nella propria solitudine. Quindi io vi ringrazio veramente e spero, auspico e sono convinto che questo sia solo l'inizio. Grazie. Sicilia, 10 settembre 2020. Quest'autunno ci farà vedere i sorci verdi. Solo questo si sentì dire il comandante della capitaneria di Porto dopo l'ennesimo salvataggio in mare di un numero imprecisato di profughi, migranti o che diavolo erano. Ma poiché, mentre pronunciava queste parole, alzò gli occhi al cielo, molti dei suoi uomini si chiesero se stesse parlando del tempo, insolitamente instabile, considerata la stagione, o del lavoro ingrato che ogni notte erano costretti a svolgere in quella pozza di mare. Mar Bianco di Mezzo, lo chiamavano gli arabi, che di mare non ne dovevano capire niente, pensò il comandante, con ancora negli occhi l'acqua ribollente e nera. I più, comunque, propendevano per la prima ipotesi, e cioè che il comandante stesse parlando del tempo. Vuoi per l'effettiva eccezionalità di quell'autunno, vuoi per una forma di scaramanzia, per non alimentare nemmeno con pensieri nuovi naufragi, salvataggi, elenchi approssimativi di vittime, con tutto il corollario di rischi e polemiche. Perché facevano troppo, perché non facevano abbastanza, perché avrebbero dovuto fare le cose in modo del tutto diverso. Come se ci fosse un modo del tutto diverso di sale a bordo ammassi di corpi sguscianti che si sbracciavano, cozzavano, così deboli che parevano anime. Francesco Trento. Io ho scelto una cosa leggera, la scoperta dell'America di Pascarella, per raccontare altri sbarchi che non ha tentato nessuno di fermare. Oddio, in realtà ci hanno provato Benigni e Troisi, non ci resta che piangere, però sono arrivati tardi. E quelli gli è successe questa, che mentre lì, fra mezzo al villutello, così alto per entrare nella foresta, rompevano i rami col coltello, vedere un fregno buffo con la testa dipinta come fosse un giocarello, vestito mezzo ignudo con una cresta tutta formata di penne d'uccello. Se fermorono, se fecero coraggio, ah, quell'uomo gli fecero, chi siete? Fece, chi ho da essere? Son selvaggio. E voi altri qua giù, chi invece manna? Ah, gli dissero, voi lo sapete, quando vedremo il re che vi comanda. E quello allora gli fece il piacere di portarli da re, che era un sultano vestito tutto d'oro con ciniere de penne che pareva un musulmano. E quelli allora, con buone maniere, dice, sa, noi venimo da lontano, per cui, dice, vorremmo sapere se lei siete o non siete americano. Che dite, fece lui, de dove siamo? Siamo de qui, ma come sono chiamati questi posti, fece, noi non lo sapevamo. Ma vedi sì in che modo procedevano. Te basta dire che lì c'erano nati, nell'America, e manco lo sapevano. E figurati allora tutti quelli, nel vederli così, senza malizia, gli cominciarono a dire fama amicizia, viva libertà, siamo fratelli. E intanto l'altri, sui navicelli, che avevano sentito la notizia, capirono che la cosa era propizia, sbarcorno tutti giù dai vascelli. E quelli gli sbattevano le mani e quell'altri, lo sai come succede, gli davano la guazia a mano che vedero che quelli ci abboccavano, che agivano con tanta buona fede, figurati siccome li trattavano. Li trattavano come ragazzini, piavano due pezzi di specchietti, una manciata di buglie, due pezzetti di vetro, un sacchetto di cerini. Gli dicevano, quanto sono carini, voler contraccambiare i nostri oggetti? E tutti quanti quelli poveretti gli davano le spille e gli orecchini. Perché il selvaggio, lui, cuore mio bello, non c'ha quadrini e manco gli dispiace, che lì il commercio è come il giocarello. Capisci siccome è, fatte capace. Io sono selvaggio e mi serve il cappello. Io ci ho un abito e so che a te ti piace. Io te do questo, adesso dammi quello, sbarattiamo la roba e siamo pace. E così per i generi più fini, e così per la roba signorile. Ma loro non ce l'hanno i quadrini. Invece noi, che siamo una famiglia della razza di gente più civile, ce l'avemo e il governo se li piglia. Il governo si li piglia più, adesso fanno il suo governo di più, la razza, la rabbia fiscale, vi ho voluto leggere questa cosa per raccontare un'altra invasione, quella che ci raccontano, per soprattutto ricordarci che queste persone che oggi bussano alle nostre porte e ci chiedono aiuto sono le persone che vengono da quei posti che noi abbiamo derubato, razziato, spogliato di ogni ricchezza e a cui in cambio abbiamo conferito negli anni la nostra spazzatura, la nostra immondizia che abbiamo trattato come discarica del mondo. Anche questa sera mentre ne parliamo stiamo scaricando quintali, forse tonnellate di rifiuti tossici. In Africa stiamo scaricando le batterie al litio dei nostri telefonini, stiamo scaricando le batterie dei nostri computer, gli schermi dei computer obsoleti, gli hard disk obsoleti dei nostri vecchi computer. rendendo varie zone dell'Africa posti assolutamente inabitabili e creando nuovi flussi migratori, creando la necessità per altre persone di andarsene e di venire a bussare alle nostre porte. Persone a cui poi l'Occidente avrà una faccia come il culo di dire: ma che vuoi da me? Perché vieni qua? Perché non te ne sei rimasto a casa tua? Perché l'abbiamo resa inabitabile noi? Okay. Quindi credo sia molto importante essere qui, sono molto grato a tutti quelli che sono qui, a quelli che hanno organizzato, e volevo rubarvi 20 secondi per raccontare un'altra cosa che stiamo facendo con Maddalena Cannarsa, la mia carissima amica, che ha avuto quest'idea di fare un capodanno solidale a Riace. Che vuol dire? Vuol dire andare lì, portare le nostre parole, la nostra musica, i nostri corpi, la nostra solidarietà alla città simbolo dell'accoglienza, e festeggiare lì il 31 dicembre, portare lì anche i nostri soldi, faremo riaprire dei ristoranti, faremo riaprire gli alberghi che in quel momento sono chiusi, e poi cercheremo in qualche modo di intercettare anche Mimmo Lucano dopo la mezzanotte, prima della mezzanotte, cercheremo di andare a brindare con lui e con la sua idea di mondo. Grazie. Buonasera, io leggo da Gioventù di GM Coetzee, che racconta la storia di un giovane australiano che emigra in Inghilterra. Nella stanza sotto la sua vive una coppia di indiani. Hanno un bambino piccolo che a volte si sente piangere in lontananza. Quando si incontrano per le scale, lui e l'uomo si fanno un cenno con la testa, la donna esce di rado. Una sera sente bussare alla porta, è l'indiano, gli andrebbe di cenare con loro. Accetta ma con qualche dubbio, non è abituato alle spezie forti. Riuscirà a mangiare senza sputacchiare e rendersi ridicolo? Ma lo mettono subito al proprio agio. La famiglia proviene dall'India meridionale, sono vegetariani. Le spezie piccanti non sono parte essenziale della cucina indiana, gli spiega il padrone di casa. Sono state introdotte solo per nascondere il sapore della carne guasta. I piatti dell'India meridionale sono piuttosto delicati al palato, e difatti così è. Ciò che gli mettono davanti, zuppa di cocco insaporita con cardamomo e chiodi di garofano, un omelette, ha un aspetto decisamente latteo. Il padrone di casa fa l'ingegnere. Lui e la moglie sono in Inghilterra da parecchi anni. Qua sono felici, dice. La sistemazione attuale è la migliore finora. La stanza è spaziosa, la casa tranquilla e ordinata. Ovviamente non sono entusiasti del clima inglese, ma alza le spalle, bisogna accettare il buono e il cattivo. Sua moglie partecipa appena alla conversazione, gli serve senza mangiare, poi si ritira nell'angolo dove il piccolo è disteso nel suo lettino. Non parla bene l'inglese, dice il marito. L'ingegnere, vicino di casa, ammira la scienza e la tecnologia del mondo occidentale, si lamenta che l'India è arretrata. Anche se di solito gli inni alle macchine lo annoiano, non dice nulla per contraddire l'uomo. Sono le prime persone in Inghilterra che lo invitano a casa loro. C'è di più. È gente di colore. Sanno che lui è sudafricano, eppure gli hanno teso una mano. Prova un sentimento di gratitudine. Il punto è, in cosa deve tradurre quella gratitudine? È inconcepibile che li inviti. Marito e moglie e bambino, senza dubbio in lacrime, nella sua stanza all'ultimo piano, per servire loro minestra in scatola seguita da, se non cipolata, maccheroni con salsa di formaggio. Ma in quale altro modo si può contraccambiare l'ospitalità? Passa una settimana senza che faccia nulla, poi un'altra settimana. Si sente sempre più imbarazzato. Al mattino comincia a origliare alla porta, in attesa che l'ingegnere vada al lavoro, prima di uscire sul pianerottolo. Ci deve pure essere un gesto da compiere, un semplice atto per cambiare, eppure non riesce a trovarlo, o non vuole, e comunque sta ormai diventando troppo tardi. Cosa c'è che non va in lui? Perché complica le cose più banali? Se la risposta è perché questa è la sua natura, qual è il vantaggio di avere una natura simile? Perché non cambiare natura? Ma è poi davvero la sua natura? Ha i suoi dubbi. Non sembra si tratti di natura, sembra piuttosto una malattia morale, meschinità, povertà di spirito, non diversa in fondo dalla sua freddezza con le donne. Si può fare arte con una malattia simile? Se sì, Cosa dice questo dell'arte? Ora sale sul palco Teresa Ciabatti. Evelina Sant'Angelo da un altro mondo. Dall'altro versante della collina, nel silenzio attraversato da solitari e strida di uccelli che Caleb continua a non vedere, sembra stia arrivando qualcuno. A comparire sono prima le teste, poi pian piano i corpi. Arrivano a piccoli gruppi o alla spicciolata. Centinaia, no, forse migliaia di creature che all'inizio, in lontananza, sembrano fatte della stessa sostanza del cielo terzo che pervade il paesaggio, rovi, cespugli, erbe alte, rocce, fico d'India e la collina dalla cima spianata, dove tutti, una volta arrivati, si fermano. Da lì guardano Caleb e il maresciallo Vitale, che a loro volta li guardano con lo stupore con cui si contempla un miraggio. La collina adesso è gremita di corpi che farebbero sicuramente paura se non ci fosse quella palla di sole che illumina di una luce senza ombre e pare bruciare di un fuoco astrale la superficie piatta del mare. Se i padri e le madri, gli zii, i fratelli, le sorelle, i nonni, le nonne fossero lì, potrebbero, se non altro, vedere le loro creature disporsi in un'ala immensa e muta. Buonasera, buonasera e benvenuti a questa edizione straordinaria del TG Lercio. Iniziamo subito dalle notizie più importanti di oggi. Matteo Salvini confessa, senza gli immigrati dovrei spiegare come funziona la flat tax. Boniazioni, la Lega apre un corridoio umanitario per far rientrare i diamanti immigrati in Tanzania. Scafisti, arriva il giro di vita dell'Unione Europea, vietato gettare in acqua immigrati se non sono passati almeno 2 ore dal pasto. L'Unione Europea, chi è in fuga dalle cazzate di Salvini, può chiedere asilo politico in altre nazioni. Immediata la reazione del ministro dell'Interno, non sono un mostro, ha dichiarato Salvini mostrando un selfie in cui accarezza un cucciolo di migrante. E passiamo alla cronaca, Bergamo, trovato un magazzino pieno di lavori rubati agli italiani dagli immigrati. Vittorio Feltri piange per un immigrato a Lampedusa, era ancora vivo. Quel negro l'abbiamo visto prima noi, rissa tra Forza Nuova e Casa Pound. I ragazzi feriti, 88 in totale, sono stati immediatamente trasportati al Policlinico Gemelli di Roma, dove il primario di chirurgia, Thomas Sankara, ha spiegato: ognuno di loro rimane nelle condizioni gravi di sempre. E continuiamo con il nostro telegiornale, allarme migrazione, ogni anno arrivano dall'Africa miliardi di granelli di sabbia clandestini. È il cielo la nuova rotta scelta da trafficanti per portare oltre il confine chi dall'Africa vuole raggiungere il continente europeo. Sarebbero infatti milioni, se non miliardi, i granelli di sabbia africana arrivati clandestinamente nelle città costiere italiane. I disagi sono molteplici, tra cui finestre sporche, bruciore agli occhi e nuovi editoriali di Maurizio Belpietro. Roma, attivista di Casa Pound si lancia nel Tevere e salva un immigrato. Dovevo finire di picchiarlo. E passiamo alla cronaca locale. Roma, leghista si appisola in metro, extracomunitario gli ruba il lavoro dalle tasche. Ambrogio Orcudigel, 48enne leghista, sarebbe stato vittima di un furto di lavoro all'interno di una carrozza della linea blu da parte di un extracomunitario, probabilmente di etnia ISIS. Non è la prima volta che accade una cosa del genere, ha dichiarato Matteo Salvini. A breve presenterò un disegno di legge per garantire la presenza di un poliziotto in ogni tasca di pantalone degli italiani. E apriamo la nostra pagina ludica, il gioco del Monopoli si rinnova. in arrivo versione con piccoli immigrati da mettere negli alberghi. La nuova versione del popolare gioco da tavolo si chiamerà Monopoly Triton e permetterà di immergersi in un mondo molto più aderente alla realtà migratoria. Via gli obsoleti Parco della Vittoria, Bicolo Corto, Bastioni, Gran Sasso e largo a centro xenofobo Vittorio Feltri, via Accademia del Razzismo, Parco dello Sgombero e via Borghezio Pensatore. Il numero delle prigioni inoltre aumenterà a 10.402. Continuiamo con il nostro telegiornale. Tenta di entrare in Europa dall'Africa del Nord. Partita al risico tra le visti, finisce in rissa. La frase "non sono razzista ma" candidata al premio Nobel per la pace. Passiamo alla scienza. Ricerca svela in Italia reati giù del 95% se si cacciano via gli italiani. I dati raccolti dal professor Chicco Vescio hanno confermato quello che si sospettava da tempo, e cioè che per ripristinare la legalità nello stivale è necessario allontanare gli italiani dall'Italia. L'unica alternativa a una soluzione così drastica sarebbe il rispetto delle leggi da parte degli italiani, una eventualità non ancora sufficientemente esplorata in ambito accademico e a proposito della quale lo stesso professor Vescio ha dichiarato buhahahahahahahah. E chiudiamo con un aggiornamento appena arrivato in Russia. Famiglia siriana chiama i figli con nomi di banche per farli salvare dall'Europa. Ed è tutto per questa. Rossella Milone. Evelina Sant'Angelo, da un altro mondo. Anche il maresciallo Vitale se ne stava seduto sul divano del proprio soggiorno, tranquillo, ad ascoltare il telegiornale. La notizia riportata aveva a che vedere con le straordinarie condizioni climatiche diffuse su tutto il continente. In particolare, il colonnello dell'aeronautica, che il maresciallo Vitale stava ascoltando, aveva appena scandito una frase che lo disturbò. Da domani calma piatta tra Stretto di Sicilia e Canale di Malta. Non che il maresciallo preferisse il maltempo, ma gli sembrò che in quelle parole ci fosse un che di allusivo ai nuovi sbarchi dalle coste nordafricane. Come era già accaduto a settembre, il mese più duro che gli uomini della Guardia Costiera avessero mai affrontato in quegli anni, di naufragi, ricerche e salvataggi. La cosa che il maresciallo Vitale temeva di più, soprattutto dopo il macello successo alla stazione dei Carabinieri, quel fatidico 28 ottobre. Nel chiarore azzurrognolo che emanava dallo schermo, ebbe l'impressione, subito dopo la certezza, che ci fosse qualcuno seduto, anzi appollaiato, sopra il televisore. Che non fosse un'allucinazione fu evidente quando si decise ad accendere la luce e, tornando a guardare, vide due gambe magre penzolare davanti allo schermo. Anche i piedi erano magri e nudi. Non appena tentò di fare qualche passo, fu colto da una paura che non riusciva a spiegarsi. Non perché il bambino si fosse mosso, avesse tirato fuori un coltello o un'arma. Non si era spostato di un millimetro. A paralizzarlo era proprio la fissità con cui lo guardava avanzare e gli occhi, neri immobili, di un nero che ricordava lo sprofondo del mare. Impietrito dinanzi allo schermo, certo che quel bambino fosse proprio lì, cercò di costruire con tutta l'esattezza di cui fu capace come erano andate le cose la mattina del 28 ottobre. Era una giornata qualsiasi, un po' velata. Alla stazione dei Carabinieri erano cominciati ad arrivare alla spicciolata diversi stranieri che non avevano nessuna denuncia da fare. Volevano parlare con il maresciallo. Non dicevano il maresciallo, in verità, chiedevano di quello che lì dentro era il capo. Per il resto se ne stavano seduti in sala d'attesa. Per questo, l'appuntato Genovesi era già entrato almeno 3 volte nella sua stanza. C'era un certo numero di extracomunitari, tutti con in mano un foglietto ripiegato, che volevano parlare con lui. Più donne che uomini. Il caos era cominciato non appena l'appuntato genovese aveva riaperto la porta dicendo «Mi raccomando, a uno», come se stesse parlando a dei bambini e non a una folla di gente che premeva contro il suo petto per farsi largo, brandendo quei foglietti che poco prima ciascuno teneva in mano come reliquie. Adesso svolazzavano in un intrico di braccia e mani sopra la sua testa, neanche fossero uccelli impazziti, tra un vociare scuro di cui il maresciallo non capiva una sola parola. Era stato allora che aveva cominciato a capire che i quadratini di carta svolazzanti non erano foglietti, ma foto. E tutte ritraevano visi, busti, figure intere di bambini, che quelli erano madri, padri, fratelli, arrivati lì per avere notizie dei loro bambini. Il maresciallo lo aveva compreso soltanto quando si era ritrovato quasi addosso una donna che urlava, piegata sulla sua scrivania nel tentativo di mostrargli un litario di giornale in cui si riportava la notizia di un bambino recuperato in mare e sepolto nel cimitero cittadino. Ripeteva «Mio, vivo, bambino mio». Intanto estraeva dalla tasca di un giaccone maschile, due misure più grande, una foto a colori di quel suo bambino, scattata il giorno del suo secondo compleanno, in un interno arabescato di tappeti e tende sgargianti. Anche gli altri, padri, fratelli, nonni, madri, adesso dicevano la stessa identica cosa, «Mio, vivo, mio», nonostante i loro figli, fratelli, nipoti, fossero stati recuperati in mare, identificati e seppelliti, anzi, disseminati in vari cimiteri dell'isola. Ecco come erano andate le cose quel 28 ottobre che avrebbe finito per stravolgere convinzioni e certezze su cui il maresciallo Vitale aveva fondato ogni pensiero e azione. La realtà è realtà. Le fantasie sono fantasie. E lui era un uomo di realtà, abituato alla concretezza. La mattina dopo, di quel ragazzino appollaiato sul televisore non c'era più traccia. Per quanto non sapesse entro quale ordine di eventi ricondurre quel che era accaduto, il maresciallo Vitale, nemmeno per un solo istante, pensò di aver visto un fantasma. Tommaso Pincio. Cristofori Colombo, chi fascisti? La meglio gioventù tu rovinasti. Cristoforo Colombo, che facesti? La meglio gioventù tu rovinasti. È un vecchio detto calabrese. Io immagino che nessuno di voi l'abbia mai sentito, anche se ai suoi tempi era molto usato, ed è un detto che dice quanto fosse anche costoso, pericoloso, duro e lasciare l'Italia per andare in America. Però la cosa che mi colpisce di questo detto è che io ne sono venuto a conoscenza leggendo il libro di uno scrittore canadese, anzi, di uno scrittore italo-canadese, ovvero di un uomo i cui genitori, nonni, avevano fatto quel viaggio. Quindi in quell'italiano migrante, la memoria di qualcosa che noi non conserviamo più sopravviveva ancora. E per questo ho pensato di leggervi un passo dal Popolo dell'Abisso di Jack London, che è un reportage su una delle zone più povere e disperate di Londra, e dove si racconta, tra le tante cose, che le migrazioni, in fondo, come dire, sono a parte un fenomeno imprevedibile e ricorrente, quindi, come dire, ci potrebbero toccare anche a noi da un giorno all'altro, ma che sono anche sotterranee, tante volte non si deve per forza abbandonare il proprio paese, prendere la nave, affrontare chilometri. Spesso le migrazioni sono anche qualche cosa che ci sposta all'interno della nostra città. È solo una questione di mesi e poi anche la strada in cui vive John Upright scomparirà. Egli stesso se ne rende conto e mi dice: l'affitto mi scade fra un paio d'anni. Il padrone di casa è uno che vive qui, uno di noi, e da nessuna parte ha alzato gli affitti. Per questo siamo riusciti a rimanere. Ma da un giorno all'altro può decidersi a vendere. Oppure muore, che per noi è più o meno la stessa cosa. E a quel punto? A quel punto la casa viene acquistata da qualche agente immobiliare, da uno speculatore che sull'area libera là dietro, dove ho quelle due viti, ti costruisce un fabbricone, ti aggiunge un'altra casa e te la mette in affitto, una stanza a famiglia. A quel punto Johnny Upright deve fare fagotto. E io vidi Johnny Upright, la sua linda mogliettina, le sue belle figliole, la servetta scarmigliata, fuggire verso est come tanti spettri nella notte attraverso le tenebre, con la città mostro che rumoreggia le loro calcagne. Ma Johnny Upright non è il solo a dover fuggire prima o poi. Laggiù, in fondo, all'estremo limitare della metropoli, vivono i piccoli uomini d'affari, i piccoli imprenditori, gli impiegati che hanno messo insieme un certo gruzzoletto. Abitano linde casette o villini per due famiglie, con bei fazzoletti di verde e variopinti tappeti di fiori sul davanti e dello spazio per muoversi e respirare. Sono gonfi d'orgoglio questi piccoli uomini e guardano con disprezzo l'abisso da cui sono riusciti a fuggire, ringraziando il Dio per non essere come gli altri. Quando ecco che d'improvviso sopraggiunge Johnny Upright e li travolge, e dietro di lui galoppa ventre a terra la città mostro. Come per magia orrendi casermoni sprizzano ovunque dal sottosuolo, i fazzoletti verde e i tappeti di fiori sono schiacciati da nuovi edifici incombenti, i villini vengono divisi e suddivisi in appartamenti a non finire, e a poco la nera notte di Londra cala su tutto e su tutti come un sudicio manto funebre. Veronesi. Allora, tra le cose che ho fatto, che mi hanno un po' travolto la scorsa estate, ho anche per un certo periodo trollato Matteo Salvini su Twitter. Questa è una selezione che ho fatto, diciamo, quelli venuti meglio, che si intitola Trolling Salvini. 20 agosto 2018, ore 21:43, da Sandro Veronesi. Caro @MatteoSalvini, come va con la Diciotti? Perché non querela il suo comandante? Le auguro buona serata di karaoke. 21 agosto 2018, ore 9:32, da Sandro Veronesi. Buongiorno signor ministro @MatteoSalvini. Sa che la Diciotti non è ancora stata destinata a nessun porto italiano? Sa che in questo modo, se la nave non è attraccata in porto, il sequestro di 177 persone che lei ha in mente di compiere è impossibile? Buona giornata. 21 agosto 2018, ore 16:20, da Sandro Veronesi. Gentile signor ministro Matteo Salvini, vuole gentilmente indicarci qual è il reato commesso dai 177 naufraghi trattenuti in prigionia a bordo del pattugliatore Diciotti? Grazie e buon pomeriggio all'Acquafan. 21 agosto 2018, ore 20:45, da Sandro Veronesi. Gentile signor ministro @MatteoSalvini, vorrebbe gentilmente chiarirci di quali diritti godono e di quali non godono i 177 naufraghi a bordo della Diciotti? Possono mangiare, orinare, defecare? Grazie e in bocca al lupo per la gara di gavettoni di stasera. 22 agosto 2018, ore 9:10, da Sandro Veronesi. Gentile signor ministro et Matteo Salvini, poco fa ho incontrato un Sasso che inveiva contro di lei accusandola del sequestro di 177 persone. Lo sanno anche i Sassi ormai. È proprio sicuro che le porti consenso? Si diverta sul bananone. 22 agosto 2018, ore 15:40, da Sandro Veronesi. Gentile signor ministro e Matteo Salvini, prima di immergersi nella pericena con l'ambada, potrebbe gentilmente renderci edotti della definizione di sequestro di persona data dal codice penale italiano? Grazie. 22 agosto 2018, oggi è stata per lei una giornataccia, le tocca rispettare la legge. Con la 18. Il suo modello Donald Trump è a un passo dall'impeachment e ha pure perso il torneo di lancio del formaggio. Si consoli con questo sorriso. 22 agosto 2018, 22:45, da Sandro Veronesi. Mi perdoni, gentile signor ministro Ed Matteo Salvini, mi so bene che sta partecipando al torneo di Scopa Briscola il 21, ma mi trovo costretto a chiederle una precisazione. Lei ha detto che i naufraghi non minorenni si attaccano. Potrebbe precisarci a cosa esattamente? 23 agosto 2018, ore 9:20, da Sandro Veronesi. Buongiorno, signor ministro Matteo Salvini. Mi scusi se continuo a disturbarla, ma a bordo del pattugliatore 18 ci sono circa 150 persone che ieri hanno da lei ricevuto l'ordine di attaccarsi, ma aspettano ancora di sapere a cosa. Mi saluti tanto, Rita Pavone. Da Rita Pavone Official. A Sandro Veronesi, la precedo, un affettuoso saluto a tutti i suoi cari, Rita Pavone. Da Sandro Veronesi a et Rita Pavone Official, grazie e forza Juve. 23 agosto 2018, ore 11, da Sandro Veronesi, gentile ministro et Matteo Salvini, vedo che sta per prendere la seggiovia, perciò sarò breve. Solo per ricordarle che finché non saranno sbarcate dalla 18, quelle 150 persone sono da considerarsi a tutti gli effetti dei naufraghi, non dei profughi. Si copra che tira vento. 23 agosto 2018, ore 17:58, da Sandro Veronesi, mi scusi se glielo dico, signor ministro et Matteo Salvini, ma ieri, guardando il suo messaggio via Facebook, ho notato che le è venuta un po' di bavetta alla bocca. Un leggero inestetismo, niente di grave, solo che io fossi lei stasera salterei la maratona della porchetta. Da Sandro Veronesi, gentile ministro et Matteo Salvini, prima che cominci la caccia al tesoro e notturna, la prego di considerare questo suggerimento per sbloccare la situazione della 18. Si potrebbe tagliare un orecchio al giorno ai naufraghi e recapitarlo a Bruxelles in una busta, solo il logo però, mi raccomando. 24 agosto, ore 9:59, da Sandro Veronesi. Buongiorno signor ministro et Matteo Salvini. Oggi a Bruxelles si terrà una riunione della Commissione europea per affrontare la questione migranti. L'Italia da chi sarà rappresentata? Sono stati svolti i necessari colloqui preliminari? Lo stomaco come va? Mangi in bianco. Da Sandro Veronesi, gentile ministro Ed Matteo Salvini, mi ha visto, non ha fatto in tempo ieri a menzionare l'Australia, che crash, è caduto il governo in Australia. E sa che le dico, a proposito della sua nausea, meglio se oggi digiuna proprio, solo acqua calda e limone, mi creda, può farcela. 24 agosto 2018, ore 15:12, no, gentile ministro Ed Matteo Salvini, non ci siamo capiti, il digiuno lo suggerivo a lei per via della bavetta di ieri, non ai naufraghi della 18. Se lo fanno loro e lei mi partecipa al palio della trippa, non serve a niente. 25 agosto 2018, ore 22:31, da Sandro Veronesi, gentile signor ministro Ed Matteo Salvini, ho una curiosità, gli straordinari, ai membri dell'equipaggio della 18 che non possono scendere dalla nave, li pagherò io con le mie tasse o la Lega con quei 49 milioni che si è inguattata? Ci vada piano con la grappa al mirtillo. Da Sandro Veronesi, un'altra curiosità, signor ministro Ed Matteo Salvini, i naufraghi che saranno presi in carico dalla Chiesa potranno uscire dalle canoniche? Le auguro una serena notte della Luganega. 27 agosto 2018, ore 15:23, Da Sandro Veronesi, se posso permettermi, gentile ministro e Matteo Salvini. La sua idea di rinunciare all'immunità parlamentare è un impulso suicida. Ci ripensi. Dichiari che non lo fa per lei, ma per i 60 milioni che credono in lei, per un senso dello Stato, ma non ci rinunci. Io gliel'ho detto. Grazie. Veronica Cruciani. Buonasera. Grazie di essere qui. Parlo a nome del Teatro Biblioteca Quarticciolo. Sono emozionata e sono felice di ospitare questa serata quando Michela Murgia me l'ha proposto, ho detto subito di sì. Ci sono tante persone, credo tutto un pezzo del paese, che non è d'accordo con questa politica dei respingimenti, non è d'accordo con tutta una serie di politiche che hanno il desiderio e la voglia di, come dire, di contrastare tutto questo facendo anche qualcosa di concreto. E quindi grazie di essere qui a tutti. Ho scelto un pezzo di un autore, Alessandro Leogrande, La frontiera, che era un autore sensibile a questi temi, e parla di Lampedusa, che cui io sono stata per molto tempo insieme a Scanio Celestini. Abbiamo fatto un festival teatrale, abbiamo fatto un laboratorio con dei rifugiati politici. E leggerò questo pezzo di questo libro. Grazie. Il suo mozzatore si cala in fondo al mare, si tira giù con l'aiuto di una corda. Sembra una pertica conficcata sul fondale. L'uomo pare danzare, la tuta nera è avvolta da scie di bollicine. A tratti si sente il rumore dell'aria sputata fuori. Al primo sommozzatore se ne aggiunge un altro, poi un altro ancora. Tutti hanno scritto sul braccio destro «Guardia costiera». Dopo alcuni secondi circondano il relitto. Adagiato a 40 metri di profondità al largo dell'isola di Lampedusa, il peschereccio sembra in secca, incuneato nella sabbia chiarissima del fondale. I tre sub, le bombole sulle spalle, calcano il ponte della piccola imbarcazione ed entrano da una porta laterale. Passa qualche secondo ed estraggono il corpo di una donna. Assomiglia a una bambola gonfiabile per la lievità con cui nel fondo del Mediterraneo scivola fra le loro mani. La donna è di spalle, il corpo è fasciato da pantaloni scuri e una maglietta. All'estremità spuntano le braccia e i piedi neri, i capelli lunghi e crespi, sono raccolti in una coda. La donna viene spostata e adagiata pochi metri più in là, in un angolo del ponte. Poi entrano nella cabina accanto. Sui letti ci sono due corpi. Un altro è ritto, a testa in giù. La maglietta si muove, a tratti scopre la pancia snella, irrigidita. Nella terza cabina c'è un uomo seduto, la bocca aperta, il corpo immobile, il taglio degli occhi sottili, le mani su un tavolino, come se fosse lì, ad aspettare da mesi quell'incontro. È un lavoro lentissimo. I sommozzatori tirano fuori i corpi di un ragazzo e una ragazza, poi quello di un'altra ragazza, dalle strette cabine in cui, anche se tutto è sottosopra, regna una strana calma. Il silenzio assoluto rallenta ogni gesto. Ora i corpi sono raccolti sulla sabbia accanto al relitto. Giacciono in fila, mentre gli uomini della guardia costiera ne aggiungono altri e altri ancora. Sono decine, centinaia. Compongono una fila lunghissima. Ci sono quelli con la faccia riversa, quelli con gli occhi sgranati, quelli con le braccia alzate, quelli con le mani raccolte sotto il capo, come se dormissero, quelli che giacciono vicini, quasi abbracciati, quelli che indossano ancora i giubbotti, i pantaloni, i maglioni, quelli che hanno provato a liberarsi dai vestiti, quelli con le scarpe, quelli scalzi, quelli impassibili, quelli stropicciati da uno strano sorriso. Sono tutti neri, tutti giovani. I sommozzatori continuano la loro operazione come se l'acqua non ci fosse, come se attraversassero un paesaggio lunare. I corpi adagiati sulla superficie piana della sabbia paiono stesi sulla nuda terra. Che siano schiacciati dalla pressione ottenuti sul fondo dall'acqua che ha fatto scoppiare i polmoni. Nessuno si alza dal suolo o fluttua. Sono raccolti in gruppi, attendono pazienti, inerti, mentre i sub continuano a danzare intorno al peschereccio, uno alla volta. Vengono imbarcati e portati su. A bordo del battello della guardia costiera c'è un viavai di gente, gambe che si muovono, piedi che scattano, mentre gli uomini avvolti nella tuta si alzano dal mare. Tra le onde, in uno spicchio blu scuro davanti al battello, alcuni corpi galleggiano gonfi, le gambe divaricate, in un mucchio indistinto di colori. Nel trambusto generale il corpo di un bambino viene adagiato sulle assi di legno del ponte. Avrà un anno e mezzo al massimo. La maglietta rossa, i capelli arruffati, le guance paffute. L'acqua defluisce dalle membra. La testa poggia su un lato, sotto il sole, inerme. Mediterranea, la via di terra a Roma. Con la presentazione della scrittrice Michela Murgia e Alessandro Metz, armatore della nave Mare Ionio, le letture di Valeria Golino, Francesco Trento, Francesco Pacifico, Teresa Ciabatti, Alfonso di Lercio.it, Rossella Milone, Tommaso Pincio, Sandro Veronesi, Veronica Cruciani. L'agenda della settimana teatrale. Con Roberta Nicolai, direttrice della 12ª edizione di Teatri di Vetro, Festival delle Arti Sceniche Contemporanee, a Roma al Teatro India e al Teatro Ostia Lido, dal 9 novembre al 19 dicembre. Roberta, ben trovata. Ciao a tutti. Presentaci questa edizione. Sì, un'edizione che ha avuto un lunghissimo processo di costruzione, di cui in realtà abbiamo già consumato due blocchi. Ed ora siamo al Teatro del Lido. In questa settimana, in questo momento, anzi, stiamo aspettando i rifugiati del Cast Salorno, con i quali la Compagnia d'Oro de là farà un progetto che si intitola Tanto non ci prenderete mai. È una indagine sul meccanismo di nascondimento, una sorta di tutorial che poi gli spettatori potranno fruire attraverso dei video, ma costruite a livello espressivo e a livello, come, anche come un gioco, con un gruppo di giovani rifugiati del Casso. Mm-hmm. E questo blocco del Teatro del Lido ha questa caratteristica di avere progetti scenici che prevedono l'inclusione dei cittadini a livelli diversi. In questo caso, appunto, il laboratorio si rivolge ai rifugiati. Nel caso invece dello spettacolo che ci sarà sabato, lo spazio delle relazioni, abbiamo fatto una call pubblica rivolta ai cittadini di qualsiasi età, di qualsiasi, insomma, diciamo, lavoro, senza nessuna formazione in merito di danza. E lo spettacolo sarà una sorta di balera immaginaria in cui 10 selezionati agiranno lo spazio, danzeranno sotto indicazioni del coreografo, e l'obiettivo è proprio quello di indagare lo spazio delle relazioni umane. In qualche modo è proprio il blocco di Ostia si caratterizza per questo, mentre a India andiamo a sintetizzare questo lungo processo che, diciamo, di cui ti parlavo all'inizio, nel senso, il Teatro di Vetro sta diventando sempre meno un festival concentrato e sempre di più un progetto. Quest'anno abbiamo fatto 14 laboratori nell'arco temporale, diciamo, che va da settembre a dicembre, il momento in cui appunto andiamo a dare il cuore del progetto, e avendo coinvolto 7 artisti con i quali io ho una relazione tra di pensiero, di pratico, molto lunga nel tempo, e ad una sfida, ad un azzardo. Quindi in pochi giorni, dal 13 al 19 dicembre, presenteremo diversi dispositivi. Ogni artista presenterà diversi dispositivi scenici a partire da uno stesso nucleo creativo, uno spettacolo o anche un progetto di spettacolo. Allora, facendo una parentesi a ritroso, e con che spirito era nato Teatri di Vetro e qual è la sua caratteristica fondante? Era nato con lo spirito di mettere in evidenza, di far emergere una scena che aveva appunto la fragilità, ma anche la trasparenza e la forza, la resistenza del vetro in qualche modo. E oggi è chiaro, dopo 12 anni, non ha perso assolutamente il contatto, la prossimità, la vicinanza proprio con la creazione. È il punto di partenza di Teatri di Vetro alla sua origine ed è oggi una vocazione molto precisa di questo progetto artistico. Il rapporto con gli artisti, la quotidianità di questo rapporto, l'attraversamento delle prove, della costruzione delle drammaturgie, lo scambio di pensiero, di analisi della scena contemporanea caratterizzano Teatri di Vetro. Nello stesso tempo, la cosa importante di questa edizione è il tentativo di restituire agli spettatori in maniera veramente molto dichiarata, molto espressa, la processualità interna della creazione contemporanea, che è ciò che la caratterizza, ma anche la differenzia da tutto il resto. La richiesta che molti di questi lavori fanno allo spettatore non è una richiesta di visione, è una richiesta di ingresso, di attraversamento o a volte anche veramente di caduta all'interno dei livelli più profondi legati proprio alla creazione. Io sono convinta da anni appunto di lavoro in questo senso che c'è un valore nei processi della creazione, un valore umano, o prima ancora che estetico, poetico, linguistico, che sono quasi rifondazioni di una cultura collettiva. Il tentativo di questa edizione è proprio di farli emergere in maniera dichiaratissima, mentre negli anni passati è stato sempre un cuore d'attenzione, ma evidentemente agli spettatori veniva restituito un festival nel senso più tradizionale del termine, cioè una serie di spettacoli finiti. E quest'anno non è così. Roberta, ci lasci tutti i riferimenti per seguire la programmazione sul web? Sì, sul web è teatridivetro.it, il sito è diciamo quasi online, in questi giorni va online, e penso basti quello che c'è cioè, su Facebook e Instagram, in cui appunto gli ascoltatori possono anche vedere le sessioni di lavoro, ci sono alcuni clip video delle cose che abbiamo già realizzato, siamo stati una settimana a Tuscania con trasmissioni, poi abbiamo fatto il focus di danza araba all'Angelo Mai alla fine di settembre. E quindi attraverso il sito possono anche mandarci messaggi, iscriversi alla newsletter, insomma, quindi hanno tutte le indicazioni lì. Benissimo. Ricordiamo la 12ª edizione di Teatri di Vetro, Festival delle Arti Sceniche Contemporanee, a Roma al Teatro India e al Teatro Ostia Lido, dal 9 novembre al 19 dicembre. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice Roberta Nicolai. Un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Grazie a te. Ciao Roberta. Ciao, ciao, ciao, ciao. Questo è lo spazio dedicato al teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 14 con interviste su spettacoli, festival e rassegne in corso. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.